No, è la prima volta che provo questo, no? Il funziona anche se però quest'anno un po' più tardi. Anche non so come cazzo è arrivato l'altro. Allora, se guardate un attimo le parti iniziali del programma che insomma vedete, allora questo qui è un corso vecchio, spesso è il corso che ho fatto, ha cambiato nome diverse volte, era nato come Archetipi dell'Immaginario, poi Archetipi della Fantascienza, poi non so che cazzo sono, una serie di robe, no, di nomi contro cui la mia coscienza insorge, in modo particolare il libro del termine Archetipi. Io sono convinto che non esistano gli archetipi, una delle ragioni che secondo me è tanto sentato da Jung, che sono totalmente contrario a questo genere, però il nome all'inizio era questo. Poi io avrei preferito obiettivamente antropologia, ma la collaborazione degli antropologi della carriera di Brera è diventata da un solo elemento che è il professor Nocche a che non voleva concorrenza, ma la cosa non è nata a parlare, insomma, uno o due mondi è stato nostro, che non volevano concorrenti, quindi non caso. Siccome Cioppi è più debole di notte, io posso insegnare una cosa che si chiama sociologia, ovviamente dei processi culturali. Vi dico subito che ovviamente la parola più importante nel titolo del corso è l'ultima e non la quindi parlerò essenzialmente, è ovvio che si parla di psicologia, si parla comunque, siamo esseri sociali, come stiamo dimostrando anche noi in questo momento, perché facciamo parte di un piccolo gruppo sociale, diciamo, un pezzo della società, diciamo, l'uomo non può vivere isolato, vive come l'uomo non è un orso, ma è un lupo. Non è un gatto, ma è un cane, non è un granchio paguro, ma è una giraffa, cioè in realtà sono molti di più gli animali che sono sociali rispetto a quelli che non sono. La socialità non è una caratteristica degli esseri umani, ma gran parte del mondo animale. Però ovviamente la società umana ha delle caratteristiche. La società umana ovviamente è fondata su, quindi uno potrebbe addirittura sostenere che il termine sociologia dei processi culturali è una ridondanza, perché in realtà non esiste società dei processi culturali, società è fatta di processi culturali. Però ormai il nome da lì. Allora, all'inizio di questo corso io, è per questo che avrei dovuto fare antropologia, perché accentuavo molto l'aspetto antropologico e quindi facevo molto conto su Leroy Burant e su McLuhan, perché 10 anni fa pensavo che fosse quello il terreno più importante da discutere, perché pensavo che fosse poca gente che avrebbe più, poi in realtà è una cosa che mi può essere quasi tutto, anche se è stato questo che io su qualche cosa, quando c'è qualcosa che è molto più importante che è un po' più. Quindi a mano con gli anni, già da 3 o 4 anni questo corso si è spostato su di un versante che potrei definire più difficile. Ecco perché sono saltato, ma ho visto forse la madre. No, perché la Vino Muraro ha scritto in realtà molti anni fa un altro pezzo di Maria e ho detto che ha scritto anche un fatto anche discorso che tu hai fermato il libro, ma diciamo perché c'è tutta una componente del pensiero comunque femminista che ha soprattutto italiano, che è esattamente partita da questo periodo. Io ovviamente non sono a secondo di fare un discorso partita femminista, anche se però posto cosa che perciò di alcune assunzioni del pensiero femminista che effettivamente è stata una delle situazioni, una delle innovazioni culturali più importanti del secolo XVIII. Allora, da un lato quindi c'è, farò una, quindi ho progressivamente ridotto tutta la parte che era molto più importante prima, diciamo, di fondamenti antropologici o di teoria della comunicazione tra la paleoantropologia e la... E quindi praticamente di questa cosa ho mantenuto, manterrò una o due lezioni, sì e no, tipo quella di oggi che la scienza di guarda tanto. Quella di oggi forse la prossima forse. Mentre del tutto recentemente, quindi diciamo il adesso mi dispiace di cancellare questo bellissimo cosa sul corpo di carne della città e con vari trasversali. Quindi diciamo che l'impostazione antropologica rimane nella prima delle, delle coppie diciamo, di categorie che si affronteranno in questo corso, che è la coppia natura-cultura. Perché questo dibattito, che cosa è la cultura, che cosa è la natura, eccetera, ha una storia ormai lunga e quindi può essere affrontato e deve essere rapidamente affrontato. Siccome il concetto di natura è un concetto in certi versi molto ambiguo, anche sulla cultura è ovvio, ma sono quello di natura, al posto di natura voi potete ovviamente leggere la parola, il termine biologia. Il termine biologia. La seconda coppia di diciamo, concetti però, che è relativamente nuova, che negli anni scorsi non ho affrontato in modo così chiaro, ma che voglio affrontare in modo più chiaro da quest'anno, ed è per questo che ho messo quel libro che trovate la seconda coppia di concetti è universale particolare. E la terza coppia, diciamo, allora siccome su questa mi voglio fermare di più, poi chiarirò meglio che cosa per il momento segnatela solo come una banata. La terza coppia su cui voglio fermarmi quest'anno è una cosa che ho già introdotto negli anni precedenti, ma che quest'anno voglio provare a illustrare in maniera un po' diversa, ed è la coppia linguaggio-azione. Per usare una parola in termine greco, in realtà passato dal latino, il problema dei rapporti tra linguaggio e azione può essere identificato come il problema della praxis, il problema della pratica, della praxis nel senso non delle singole pratiche, ma della pratica come concetto. cioè ci sono esseri, ci sono animali, ci sono ci sono prodotti della biologia, della storia di questo pianeta, che possono prescindere dal concetto di prassi, cioè dal concetto di prassi, da quell'insieme di comportamenti che stabiliscono il loro rapporto con ciò che li circonda? Evidentemente no. È anche vero però che il problema della prassi umana, il problema dei comportamenti umani, è un problema che è, diciamo, che è ovviamente differente, cioè che si pone in maniera certamente diversa da quella, da quello di altre specie animali. Il che spiega tutta una serie di equivoci che si sono presenti nello studio di tutte queste coppie. Allora, la conclusione a cui sono arrivato, ed è per questo che quest'anno la prima parte del corso cambierà, la seconda parte rimane sempre più o meno simile, ed è quella sull'uomo artificiale, ma perché allora, in tutte queste discussioni, i rapporti tra natura e cultura, i rapporti tra universale e particolare, i rapporti tra linguaggio e azione, cioè la definizione dell'essere umano come essere che agisce, cioè che ha un insieme di comportamenti guidati da una capacità di decisione. Tutto questo in realtà io credo si possa, viene a tutte queste opposizioni, vengono attraversate da una opposizione più basilare forse. Non vi spaventate e non pensate che sia una cosa troppo, diciamo, generale o troppo particolare da certi. La coppia è quella, continuità. Questa coppia di concetti ha diverse origini, prevalentemente scientifiche. È una coppia di concetti che sta alla base tanto della matematica quanto della biologia, da punti di vista diversi. Per favore non copiate tutto quello che scrivo, e in realtà da un altro punto di vista però è il problema che è stato alla base dell'antropologia. Quando l'antropologia è nata come sapere autonomo, cioè all'incirca nel secolo, alla fine del XVIII, e poi successivamente nel corso del allora, apparentemente, allora dunque, su continuità, dunque, per questo che la prima parte del corso voglio parlare in realtà su questo tema, cioè cercando di affrontare, adesso vediamo come, il problema continuità-discontinuità. Apparentemente questo problema ha a che fare certamente con quello di natura-cultura, cioè quanta continuità e quanta discontinuità c'è nella cultura rispetto alla natura, cioè quanto del nostro comportamento tipicamente umano è rinvenibile, anche se solo in senso potenziale, in altre specie animali, e quanto invece non è rinvenibile, quindi quanto rappresenta una peculiarità tipica degli esseri umani. E questa peculiarità si configura come qualcosa che si può opporre a tutto il resto del comportamento animale nella, diciamo, natura o in genere degli altri esseri viventi oltre a noi, oppure no, o cioè quanto si può opporre e quanto non si può opporre. In altri termini, per dirla ancora in modo più basilare, ha senso un concetto di vita in generale? Ha senso dire che siamo tutti esseri viventi, animali, piante, esseri umani, o gli esseri umani sono vivi, tra mille virgolette, in maniera così diversa dagli altri esseri viventi, tanto da non poter quasi neanche più utilizzare lo stesso termine di vita, lo stesso concetto di vita che si usa per quegli altri esseri che diciamo per noi? Questo, cioè, il rapporto tra la questione continuità e continuità nei rapporti natura e cultura può essere, diciamo, abbastanza semplice, da forse anche immediato, diciamo così. È più difficile capire che cosa c'entra continuità, discontinuità con la questione della universalità e con la questione del linguaggio. In realtà mi sforzerò di provare a indagare quest'anno come anche in quei due campi, anche nel campo anche sulla questione della universalità, cioè della possibile descrizione positiva, cioè utilizzabile di alcune proprietà universali che ci sono degli esseri umani, e anche nella questione della natura del linguaggio, cioè a cosa serve il linguaggio, da che cosa abbia origine, anche in questi due casi c'è sempre dietro probabilmente una questione di continuità e discontinuità. Tutto questo si collegherà alla seconda parte del corso, cioè a quando studieremo, chiacchiereremo invece su di una tematica che sembra molto più attuale, ma invece probabilmente è molto più vecchia, che è la cosiddetta tematica del postumano o dell'uomo artificiale, insomma, quella in cui ci si diverte di più perché si leggono domande e si leggono di più scienza, anche a significato, anche chi non è abituato a leggere tanto che si diverte di più. Non è una cosa forse meno del giallo, queste congiunture culturali, insomma, di quello che diventano le scelte. Affrontare il tema del postumano in un corso di sociologia della cultura o di antropologia basato su concetti di questo tipo è evidentemente pertinente, perché nel momento in cui assistiamo a un dibattito che giudica, che si pone, tramontato, non il concetto, non la specie uomo, homo sapiens, fondamentale biologica, ma il concetto di uomo come è stato elaborato dalla antropologia moderna, è evidente che è evidente perché tutto questo è collegato con quelli, con questo insieme di cose che abbiamo, abbiamo visto, in particolare con la questione continuità e discontinuità. La gran parte, almeno una parte, almeno una delle componenti culturali che oggi teorizzano il postumano, in modo particolare tutta la corrente che fa capo al cosiddetto movimento transumanista, è un movimento essenzialmente discontinuista, diciamo un movimento culturale, insomma, un movimento, cioè, diciamo, teorizza ed è convinto della discontinuità, della continuità, è discontinuista, è universalista. Nel campo del linguaggio non saprei dire perché non hanno delle idee tanto chiare, quindi non ne parlano in modo così comune. Sono sicuramente i transumanisti, sono discontinuisti e universalisti. Punto a capo, parentesi quadra. Faccio una questione di metodo. Dunque, io non riesco, e credo sia anche sbagliato, non riesco a prescindere dalle mie, diciamo, convinzioni. Quindi le mie convinzioni traspariranno anche se non voglio dirle in maniera, anche se non voglio esporle in modo conclamato, ma comunque traspariranno e voi comunque le capirete, comunque intanto vale che non ve le dica. Io diciamo milito su un fronte che potremmo definire continuista e anti-universalista. E quindi per forza di cose tutte le cose che io vi dirò saranno delle argomentazioni a favore del, diciamo, continuismo, a favore della continuità e contro l'universalismo. Però contemporaneamente non voglio che il corso, come dire, quindi il corso per forza di cose rappresenta una esposizione di quello che io penso, non è possibile che sia altrimenti. Proprio perché non sono universalista, credo che non sia possibile mascherare o truccare il proprio pensiero e una propria presa di posizione verso il mondo, tipo culturale, politico, da tutta, ha un sacco di componenti, travestendola da come dire, un discorso scientifico, virgolette. E quindi un discorso tendenzialmente di, quindi io non mi aspetto però da voi che voi diciamo la cosa fondamentale, diciamo, non sarà quella che voi coltiviate all'interno di questo corso, una adesione a ciò che io penso, perché mi sforzerò di darvi, senza tradire quello che io penso, cosa che è ovviamente impossibile per il senso umano, però cercherò di fornirvi soprattutto un metodo di argomentazione, degli, diciamo, strumenti di argomentazione che voi al vostro livello, con la complessità e con la maturazione di qualcuno di voi ha costruito o si sta costruendo in questi anni, strumenti che uno di voi possa poi utilizzare a favore di quello, di ciò di cui è convinto. Un'altra delle cose in cui io non credo, e infatti sono stato scritto, sono certamente la questione chiamata didattica o insegnamento o educazione, io credo che non sia possibile insegnare nulla o educare nessuno se non con gli atti o con fanno parte in qualche modo del funzionamento sociale, di cui quindi io sono consapevole di comunque ciò che io faccio adesso e ciò che farò nelle prossime 13 o 14 lezioni che danno insieme. So che c'è una componente anche in quello che faccio io per questioni strutturali diciamo, ci saranno dei gesti di in qualche maniera di coescrizione intellettuale che io esercito. Ma non è questo il mio, diciamo, obiettivo fondamentale. Io vi racconterò ciò di cui io sono convinto, ciò, alcune delle cose che io, diciamo, conosco, e cercherò per orientarvi dentro certi campi, ma io non considero dal mio